Chiamami baby, ma sono cresciuta, self-made, compiuta, cocciuta, scena muta, se mi lascio di stucco medusa, che serve una musa ad ogni artista, il riflesso ad ogni egoista, le bollicine dentro al crystal, qualcuno che mi mandi in fissa. Non serve un maggiordomo, a me piace un gentiluomo, che abbia orgoglio nel lavoro e sappia farcela da solo, tenga il fuoco sotto il lenzuolo, che sia forte e silenzioso, tutto quello che ha da dire lo leggi chiaro tra le righe. Serve più del Cartier, più di un bouquet, più del tuo tavolo nel tuo privé. Impressionare me non è affatto facile. Solo tu hai tutto questo, mi hai mostrato il tuo rispetto. Hai preso il gesto, ci hai fatto una X sopra il mio cuore, il gioco del Tris. In un mondo di chiacchiere taci, dove gli affetti sono solo fugaci, a darti un tono sono tutti capaci. Immagino come son fatti i tuoi baci. Hai quel gene, sei qua, hai uno stile che mi fa. Sei arrivato fino a qua, benvenuto nel mio club. Fammi vedere, che bel vedere. Puoi avvicinarti ma lasciati le sneaker. Leva il cappello, prendi il tuo tempo. Siediti sul mio letto e lasciati le sneaker. Siamo pezzi baby, fuori dalle righe. Appiccicami, baci addosso come mille sticker. Ho il corpo che ti parla quindi accendimi gli sticker. Lasciati le sneaker. Qua chi ci giudica, non farò la pudica. Un po' di musica, maestro. Voglio parlare di te, faccio un altro caffè. Sei pronto per il dessert? Intendo me. Il mondo è così freddo, portiamoci al riparo. Un po' di zucchero lo metto, se ti ha lasciato un po' di amaro. Lo show privato è iniziato, tu non correre vai piano. Sei illegale, io farò il palo, l'ottavo cielo dal mio divano. Ti do una mano se inizi lo strip. Parlo di te, tu pensavi parlassi di chi? Al massimo posso insegnarti dei trick, ma tutto qui. Porto lo chic alla street, lo strip nella suite. Kiss kiss e tu vai in tilt. Una X sopra una beach e dopo that's it. Tu trova ogni singola curva, reggiti forte, montagna russa. Sono il paesaggio, tu sei la bussola, poesia rustica come Trilussa. Hai quel gene, sei qua, hai uno stile che mi fa. Sei arrivato fino a qua, benvenuto nel mio club. Fammi vedere, che bel vedere. Puoi avvicinarti ma